24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. L'ultima domanda, qual è la sua canzone di Sanremo? Una vita spericolata. Voglio una vita. La canta? La canta. Vedi là, vedi là. La. No. Il presidente della SAP, Massimo Ferrero. Perso dentro i fatti suoi. Come conti? Come caccia via? No, no, come sta caccia via? C'è la pubblicità, devo dare lo schioppo al televoto. Era un saluto, grazie. Ho messo 50 anni a venire qua e con 3.000 mi caccia via. Così. Allora, guardi, presidente, mi aiuti, dica stop al televoto. Stop al televoto. Bravo. Vai. Grazie, presidente. Ciao. Grazie. Voglio una vita. La verità è chiara che evidentemente lo voleva cacciare, proprio lo voleva cacciare. Appena intonato voglio una vita spericolata al presidente della Sampdoria Ferrero, Ervi Peretta, c'è Conti che tipo mamma mia, pubblicità, mandate a letto i bambini, tutto. E Ferrero l'ha capito, mi vuole cacciare, 3 minuti mi vuole cacciare. Mamma mia ragazzi. Che uno fa il presidente? Sapete che sui giornali inglesi è comparsa una delle foto storiche di Ferrero con una sciarpa al collo e una sciarpa in fronte e il titolo «Voi affidereste la vostra squadra a un presidente così?» Male, non male, Ervi Peretta. Allora, Ervi Peretta canta Vita Specanta. Urla Vita Spericolata! E vabbè, e Sanremo va avanti. Allora, amici, è venerdì! È venerdì! Dai che è venerdì! Applicate lo schema Allegri a palla! Dai! Alle 6:35 minuti Lorenzo Nespoli è qui in redazione insieme a Carmelo Lauricella in regia, insieme a tutti noi, insieme a tutti voi che potete scriverci anche via SMS al 349-238-6666. Il contest del giorno è: voi affidereste la vostra squadra di calcio a uno come Ervi Peretta? Forza, il Parlamento può aprire. E ci sono tante cose da dire. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Al ministro Boschi, sul quale c'è un giallo, il Fatto Quotidiano lo scrive, perché sapete che c'è tutto un casino sulla Banca Etruria, di cui uno dei vicepresidenti è il papà del ministro Boschi. E lei ha detto, no, ma io quando si è votato il decreto sulle banche popolari non ero in Consiglio dei Ministri. Ero in Parlamento, ma il Fatto Quotidiano, dallo stenografico, dice che la Boschi non era in Parlamento quel giorno. E dov'era? Dov'è? Ministro, dov'eri? Va bene, saluto Alessandro Giglioli. Intanto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Dell'Espresso, ciao. Dobbiamo dirlo, perché oggi l'Espresso, oggi pubblica la lista Falciani. L'Espresso. La lista Falciani. Vediamo una subito. Una volta ero a Parigi e quando ho detto l'Espresso mi hanno preso in giro perché pensavano fosse il caffè. Il caffè, l'Espresso. Sì, il cappuccino. L'Espresso. Chissà se già combattiva anche Carlo Rienzi, che saluto, presidente del Codacos. Buongiorno. Avvocato, eccoci qua. Oggi abbiamo avuto un provvedimento del CIP che dice che la pubblicazione delle denunce dei redditi, ricordate quella che dice Visco? Ma come no? Coi nomi? I nomi. Era illegittima. Era illegittima. E quindi? Cancelliamo tutto. No, per dire che insomma ci sono dei problemi di privacy, anche perché non è che basta dire io sto lì in quella lista. E diciamola, questi manigoldi dell'Espresso, cioè selezionare, no? Chi evade è giusto che sia messo in piazza. Vabbè, però io chi dico non ha fatto niente, eh? Cosa sulla milizia? No, io dico una cosa, poi dice la tua Giglioli. L'Espresso hanno fatto i giornalisti, cioè è stato detto più volte che essere su quella lista non significa automaticamente essere evasivo. Questo lo diciamo. Noi ne parleremo anche alle 8:15, avremo ospite Angelo Mincuzzi, collega del Sole, che ha scritto un libro con Falciani. Giglioli, allora, però voi avete fatto una cosa giusta, insomma, avete pubblicato tra l'altro i nomi, lo stilista Cavalli, Renato Mannheimer, l'ex presidente di Telecom Grecchi, poi anche altri ovviamente, però li trovate tutti sull'Espresso. Cos'è? Ma io tengo a dare un filo di retroscena, di backstage, come si dice. Questo è un lavoro che è durato mesi, perché quando il consorzio internazionale è venuto in possesso di questa lista di giornalisti, non è che abbiamo consorzio internazionale di giornalisti che è venuto in possesso di questa lista che contiene migliaia e migliaia di nomi, non è che abbiamo, e noi facciamo parte, alcuni dei nostri colleghi di questo consorzio, non è che abbiamo preso la lista e l'abbiamo messa online o sul giornale, ma hanno fatto i cinque colleghi che se ne sono occupati un certosino lavoro di verifica, intanto nome per nome, per essere sicuri che non ci fossero casi di omonimia, di attenzione specifica alla singola posizione di ciascuno, cioè vedere quanti conti ciascuno aveva, se solo uno, se era intestatario, cointestatario, procuratore, perché le posizioni sono diverse. E poi la cosa più difficile, quando hai centinaia di persone, li abbiamo contattati uno per uno, Per verificare. Tutti il diritto di replica. Allora, ma infatti, ma diciamo dal punto di vista giornalistico. Aspetta, fammi finire su una cosa. E poi, al contrario, per esempio, di Le Monde, il famoso e prestigioso Le Monde, che ha scritto: ecco la lista degli evasori fiscali. Sì. Questo ha scritto Le Monde. Noi siamo stati ben lontani dal dire una cosa del genere. Ci siamo limitati a dire, cosa che è un fatto innegabile, e queste persone stavano con posizioni diverse, di ciascuna abbiamo specificato la posizione del 4 con conti nella lista dei conti segreti della lista. Vabbè, diciamo che è una notizia, sì. Sai anche tu cosa scatta in questi casi, un pizzico di come dire, non dico gogna mediatica, ma di indice accusatore dell'uomo della strada. Dici: ah, guarda, c'hai i soldi in Svizzera. Questo scatta un po', è un classico. Sì, posso rispondere anche su questo. Noi facciamo il nostro mestiere. Se qualcuno non ha gli strumenti per e l'abbiamo detto 30 volte di ciascuno, il caso specifico, che non sono evasori necessariamente, possono essere o non essere, questo è un giudizio che spetta alla magistratura. In alcuni casi alcuni erano residenti all'estero, quindi agivano secondo le norme locali. Dice che alcuni erano cointestatari, solo procuratori, magari avevano messo una firma a 19 anni, ma di ciascuno l'abbiamo scritto. No, ma questo sì. Se poi uno non legge... Vorrei capire, Rienzi, che se ne fa di una lista del genere? Vi stuzzica? Perché è impossibile distinguere per noi. Il giornale ha fatto bene perché ha fatto il suo mestiere. È chiaro che bisogna aspettare e augurarsi che facciano in fretta, però proprio chi deve indagare indaghi, ma molto in fretta, proprio per escludere, non per quelli che hanno fatto le cose che non devono fare, quelli possono stare alla gogna pure per un anno, per escludere quelli che non hanno nessuna colpa, nessuna responsabilità, nessun problema. Ecco, questo mi sembra giusto, perché non è che uno può uscire per strada, essere guardato dal botteghiere di fronte come l'evasore, se semmai appunto non ha fatto niente. Sì, cioè, bisogna tenere sempre un equilibrio che è difficile, capisco, tra questi due diritti, cioè quello chiaro, alla privacy e al rispetto della propria dignità, e quello invece all'interesse pubblico a pubblicare le notizie che appunto servono poi per far capire come funziona questo paese, cioè dove praticamente nessuno paga le tasse. Adesso voglio fare una conclusione anche affrettata. Nessuno, ma molti diciamo così. Vabbè, intanto mi dicono io non affiderei una squadra a Ferrero, come non darei un microfono a te, e ce l'ha con Giglioli ovviamente, che è qui a parlare, vero Alessandro? Ma infatti ho un telefono, non ho metro. Tu hai un telefono, fregato. E chi mi scrive? Chi minchia è Ervi Peretta? Ma come Ervi Peretta, il presidente della Sampdoria? Dai Ferrero, tu la fideresti l'Inter a Ervi Peretta? Tanto voglio dire, ci avete detto io. Dici a me? Sì. Sì, diciamo che non siamo in condizioni da fare tanto il ganassa. Posso dire una parola? Sì. Ha fatto un ricorso su Ervi Peretta? No, secondo me il problema è avere i soldi, perché in questo purtroppo nello sport, nel calcio, si è visto che chi ha i quattrini va avanti. Ma dai, ed è una cosa sbagliata. Come fai a comprare i giocatori? Se Ervi Peretta c'ha i soldi, bene, io gli darei alla mia squadra, cioè che c'entra, cioè, se impiega dei fondi. È un personaggio un po' così, no? Ma insomma, che mi frega, tanto che conta il presidente. Secondo gli inglesi è unfit come un altro, dice. È pure divertente, però sì, quello sì, dai, è uno che va, è genuino, no? Teniamo esatto. Conte, che fa allenatore della nazionale, viene indagato sotto processo, adesso sotto processo, si dovrebbe rimettere, no? Eccolo lì, si dovrebbe rimettere, fate un ricorso. Fatto già un ricorso, eccolo, ma mi sembrava città vecchia, sì, mi sembrava cioè, nel senso, in questo ricorso che chiedete? Le dimissioni di Conte? Diciamo che probabilmente dei requisiti che si richiedono a chi rappresenta poi anche all'estero il paese, no? Nello sport, devono essere più diversi, insomma, più specchiati. Vabbè. Giglioli, ti risultava questo ricorso del Codacons contro Conte? No, non mi era sfuggito, ma non è che riesco a seguire proprio tutto. Dai. Insomma, dai, è il CT della nazionale. Ma sai che di sport ultimamente mi occupo meno. Vabbè, ti stai occupando di quello che succede alla Camera, dove ieri mi hanno detto: sì, ma perché non parli del fascismo in corso alla Camera? A parte che sono cose veramente di una noia mortale, che interessano solo le 2000 persone che vivono di politica. Si stanno facendo delle riforme costituzionali, hanno messo i tempi molto contingentati, si è lavorato credo fino alle 3 di notte oggi, cioè praticamente io mi svegliavo e quelli della Camera andavano a dormire. Si è lavorato. Avvocato Rienzi, si stava lì a parlare, sono volati volati degli insulti. Vabbè, dai, sentiamo qualcosa. Giacchetti, per esempio. Finché si sta qua dentro, ogni deputato ha diritto di esprimere la propria opinione. Solo nei tempi fascisti non si poteva esprimere la propria opinione. Allora c'è il fascismo. Vabbè, ancora Giacchetti. Onorevole Ruocco, la espello dall'aula. Via. Onorevole Bonafede, la richiamo all'ordine per la prima volta. Appuntate per favore chi sto espellendo. Onorevole Bonafede, la espello dall'aula. Eccola là, due richiami e via. Poi scatta chiaramente la rissa. Ai colleghi del 5 Stelle che impediscono di parlare anche all'opposizione. E devo fare i complimenti però al Partito Democratico per il capolavoro che avete combinato. Io lo dico così, signor Presidente. Colleghi, per favore! Colleghi! Signor Presidente! Colleghi, per favore! La seduta è sospesa! Pezzo di merda! Qua si è sentito chiaro, pezzo di merda! Si è sentito, Giglioli. Il resoconto è chiaro, Adesso io ti abbasso drammaticamente l'audience, perché ti devo dire che queste cose interessano 2000 persone, sì. Però poi vanno a impattare nella vita di tutti. No, perché stanno alle Camere, si sta cambiando la Costituzione, e ci sono cose come il referendum abrogativo, la possibilità che vengano o meno discusse le proposte di legge di iniziativa popolare e una serie di cose che, attenzione Milan, riguardano da vicino, molto da vicino, il rapporto fra persone e palazzo. Ma io sono d'accordo, aspetta, con te. Però porca miseria, una segreteria telefonica in cui molte persone appalesano la propria lontananza dalla politica, da parte che si sentono escluse. Quello che si sta discutendo in questi giorni in tema di riforme costituzionali è se creare o meno, o se ridurre, i canali di comunicazione tra chi sta fuori dal palazzo e chi sta dentro il palazzo, fra decisori e rappresentanti. Allora guarda, visto che l'hai chiamata, la rissa è brutta. No, ma la rissa, vabbè, ma è chiaro che... Non lo so. Ma in ogni caso, le questioni di cui si sta discutendo in questi giorni non è che poi nei loro effetti riguardano 2000 persone, riguardano tutti noi cittadini. Scusami, è stata fatta la ramanzina. Ma figurati. Ma certo, a me piace proprio questo. Ma appunto, andiamola a sentire questa segreteria telefonica dopo il traffico. 24 mattino. Gentilissimo signor Schettino, è arrivato finalmente il tuo destino. Quando c'erano le udienze non ti sei presentato, perché sennò ti avrebbero tutti schifato. Sono imbestialito, come si fa, a parte che non me ne frega niente delle lacrime di Schettino, no, ma come si fa un magistrato a dare 16 anni di galera, un mese di arresto? Cioè, allora io rubo un pollo, vado in galera un 4 mesi sicuramente, e lui per aver ammazzato 28 persone, 30, non so quante erano, se ne sta in giro. Buongiorno Mino, volevo parlare un attimino a nome di tutti gli italiani, perché era proprio fuori di cose. E non è giusto, perché era fuori di tesoro, allora si è tara. È chiaro questo, no? Ho parlato come parlano i politici, non si capisce un cazzo. Caro Milan, hai sentito che il governo non vuole rimborsare i soldi che i presidi hanno speso per pagare gli insegnanti di sostegno? Attendo che i soldi erano stati versati dagli genitori con il contributo volontario obbligatorio. E adesso il ministero gli ha scritto che ai presidi che hanno pagato che avete fatto male, perché non dovevate pagare. Ma tu di questi qui non dici niente che te possino pigliare fuoco, non dici niente, perché tu stai insieme a quell'amico tuo Renzi che te possino pigliare fuoco, ciao. È tornato il contadino di Terni Angelino, anche lui mi accusa di essere con Renzi, vabbè, ma qua tanto volano accuse così. Carlo Rienzi, io sto con Rienzi, ecco, questo si può dire. Schettino, allora. Testimonial qui, della coda con TV. Noi abbiamo fatto tutto il processo a Grosseto, abbiamo fatto uscire fuori tutte le responsabilità. Adesso pare che finalmente a Genova si indaghi su perché non è partito il generatore di emergenza che ha fatto rimanere l'ascensore aperto e morire 9 persone affogate nella tromba dell'ascensore, che non c'entrano niente con lo scoglio. Quelli già sono cavati. Ma chi è andato contro lo scoglio, voglio dire, chi è che è andato contro lo scoglio? È andato contro lo scoglio Schettino, ed è bene che è stato punito. Ma se il timoniere non fosse stato un pittore di pareti e avesse capito l'italiano, lui aveva dato l'ordine giusto, e se avesse girato a sinistra all'ultimo, forse lo scoglio, secondo questa ricerca fatta e premiata anche a livello internazionale, non sarebbe stato preso da Schettino, che aveva sbagliato comunque. Quindi ha sbagliato, ma hanno sbagliato anche chi ha messo al timone uno che non capiva l'italiano e che faceva il pittore, e hanno sbagliato quelli che non hanno fatto funzionare il generatore di emergenza. Su questo non c'è dubbio. Anch'io sostengo che Schettino, che è responsabile, sicuramente poi ha avuto un comportamento da quel giorno indicibile, paga per tutti, è chiaro che Ma non è giusto questo, non è giusto. Ho sentito anche Manfellotto, visto che c'è l'Espresso presente alla radio l'altro ieri mattina, che non come si fa a dare un'informazione così parziale? Non si può dire è stato punito, beh, tutto a posto, tutti contenti, tutti a casa, i 32 morti, ma 9 morti nella tromba dell'ascensore non sarebbero morti se il generatore di emergenza avesse funzionato e fosse stato collaudato come si doveva prima di mettere in mano la nave. Siete parziali, non è un caso che la Carnival adesso ha speso 500 milioni di dollari per rifare il generatore di emergenza. Siete parziali voi dell'Espresso? Bisogna dire la verità. Ho sentito cosa ha detto l'ex direttore. Quello che posso dire è che ci sono stati un processo che è durato mesi, sì, con analisi, controanalisi, attenzione. Insomma, non è che infatti sono arrivato. Io ho fatto un po' di giudiziario nella mia vita, poca, e mi sono convinto in generale, vale anche per la politica, che parlare dei processi senza averli seguiti, senza aver letto almeno un pochino le carte, è un po', diciamo, superficialone, ecco. Poi per carità, noi siamo tutti superficialoni. Io ne parlo perché siamo dentro. Però, sa tutto, legale, sa tutto il Codacon, sa tutto, Giglione, sa tutto. Non avrei parlato. Sto dicendo che ci sono stati processi che durano talmente tanto lungo, con una quantità di analisi, di controlli talmente complessa, che ridurre il tutto a un commento non è facile. Ma io devo concludere. Io devo concludere intanto nel ringraziare Giglioli e nel ringraziare Carlo Rienzi. Vi voglio far finire con una risata. Il mitico Luca Bizzarri, il mitico Paolo Kessisoglu, che a Sanremo dicono: tu prendi uno di Firenze, lo metti spesso in televisione a dire cazzate, se le bevono su tutti, vanno dietro, così, una cosa. Sto guardando questo festival, mi è piaciuto tanto. Pensa che io non mi divertivo così tanto dal discorso di insediamento di Mattarella. Sì, ma volete smettere? Mattarella però era un po' più... Mattarella più verve. Faceva più ridere, però è bravo, anche lui è bravo, anche tu sei bravo. Grazie. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, cari stranieri, cari tutti, siamo pronti a leggere i giornali e ricordo che oggi parleremo della lista Falciani. Allora, lo chiamiamo così all'italiana, visto che è anche italiano, Falciani, Hervé Falciani. Lo faremo con Angelo Mincuzzi, collega del Sole 24 Ore, che ha scritto un libro edito per Chiare Lettere, sarà in libreria dai prossimi giorni, la prossima settimana. Un libro proprio con Falciani, si intitola La cassaforte degli evasori. E poi avremo ospite Bruno Tinti, anche Bruno Tinti sarà con noi. Ebbene, ne parleremo alle 8.15 e spiegare di che cosa si tratta, chi è questo Falciani e di che lista si tratta. Ma oggi trovate molto sui giornali appunto che andiamo a leggere. In questo venerdì 13. Succede. Ricordate che essere superstiziosi porta una tremenda sfiga, Venerdì 13 febbraio, allora, il Sole 24 Ore, Atene tratta tregua a Kiev, i mercati tornano in rialzo, questa è l'apertura. Sulla Grecia anche La Stampa, Grecia salvataggio più vicino, mentre Il Messaggero, l'Unione Europea apre alla Grecia, trattiamo, questo è il titolo di prima pagina. Il Corriere della Sera, la lista segreta degli evasori. Attenzione, non si tratta della lista Falciani, ma una frode da 1 miliardo con un giro di polizze su cui indaga la Procura di Milano. Una frode da 1 miliardo sulle polizze, questa è l'ipotesi. Ucraina, la tregua fragile, questo è il titolo di apertura di Repubblica. Mentre sulle banche, indagine sui pasticci di Renzi con le banche, così apre Libero. Il Fatto Quotidiano invece, il mistero della Boschi scomparsa, giurava di aver disertato il Consiglio dei Ministri che ha riformato le banche popolari, tra cui Banca Etruria, di cui è vicepresidente il padre, dicendo ero in Parlamento, ma si scopre dai resoconti che non è vero. Così il Fatto. Il Giornale invece, soldi in Svizzera, tutti i nomi, eccola qui la lista Falciani. Allora voglio partire proprio da questo. Dalla lista che trovate in realtà sull'Espresso, oggi viene svelata, ci sono 100.000 i conti della lista Falciani, 7.000 circa sono italiani. La resa dei conti, questo è il titolo del reportage che trovate sull'Espresso. Vabbè, ci sono dei nomi. Più volte è stato detto e va ribadito tutte le volte: essere su questa lista di per sé non significa nulla. Non è che vuol dire ho i soldi in Svizzera e quindi chissà quali tipi di reati uno ha fatto automaticamente, però è questa lista. C'è tra i nomi più conosciuti, fa sapere l'Espresso, degli italiani: il presidente di Telecom Italia Recchi, l'amministratore delegato di Benetton Airoldi, il sondaggista Renato Mannheimer, l'imprenditore Giulio Malgara, l'ex rettore della Bocconi Luigi Guatri, Giancarlo Giammetti, da decenni stretto collaboratore dello stilista Valentino. Anche se la somma record di 606 milioni di dollari, 606 milioni, viene associata agli eredi di Bruno De Mico, costruttore morto nel 2010, che negli anni 80 fu al centro di uno dei più clamorosi scandali dell'era pre-Tangentopoli. Comunque anche Angelo Mincuzzi, sul Sole 24 Ore, parla appunto di questa lista. Ecco i nomi della lista: Falciani, da Recchia, da Airoldi, per arrivare fino a Guatri, e c'è anche Davide Serra, cioè il finanziere considerato vicino a Renzi. Ma questo si era già detto ieri, così come si era fatto il nome di due politici per il momento: Stracquadagno, politico per la verità scomparso nel frattempo, con 10 milioni, e anche Pippo Civati, che però dice è stato tutto chiuso il conto, che si riferiva a mio padre. Tra l'altro sul Corriere della Sera ho letto un'intervista alla sorella di Stracquadagno, colei che è cointestataria del conto, e dice: i milioni di mio fratello sono un'eredità. Ecco qui Maria Antonietta Calabrò intervista Tiziana Stracquadagno a pagina 6 del Corriere della Sera. Non sono dollari intanto i 10 milioni, ma la cifra non è proprio esatta. Comunque è una cifra enorme, ma non saprei dire, non me la ricordo esattamente, gli importi detti non sono corretti, ma questa storia è venuta alla luce ora perché mio fratello, che è morto, era un politico, tutti a pensare chissà cosa. Altrimenti sarebbe stata solo una vicenda privata, nel senso che non ha a che fare con l'attività politica in cui era impegnato mio fratello. Comunque, già anni fa abbiamo avuto accertamenti dal fisco, abbiamo scudato tutto con lo scudo del 2009, abbiamo pagato una bella cifra e dunque tutto a posto, tutto regolare, tutto chiuso e finito tra il 2010 e il 2012. E ma allora come si è sentita quando ha visto il suo nome sui giornali? In pericolo, addirittura in pericolo. Sì, la gente ne può approfittare. Allo stesso modo è messa a rischio la mia attività professionale, visto che sono commercialista e guadagno da vivere col mio lavoro. Questo fatto della pubblicità per la lista non è una bella cosa per me. Cosa ne pensa del fatto che la lista sia stata sottratta da Falciani? Penso sia stato violato il segreto bancario che in Svizzera esiste. Noi italiani con gli scudi siamo stati fortunati, ma negli Stati Uniti c'è il carcere. Questa è la sorella di Giorgio Stracquadagno. Comunque, identificati i nomi che oggi trovate sull'Espresso. I nomi della lista Falciani. Ma qui siamo invece ad aprire una serie di articoli che riguardano il cosiddetto caso dei vitalizi. Ah, i vitalizi ogni tanto ritorno. Dai, che è venerdì e questa storia dei vitalizi vi accompagnerà per il weekend con dei begli articoli che trovate oggi sugli giornali. Intanto sappiate, come fa sapere il Fatto Quotidiano, che i vitalizi per gli ex consiglieri regionali sono 3.200 e valgono circa 170 milioni di euro l'anno, quindi 170 milioni che se ne vanno così. Ci sono però dei casi straordinari. Oggi Mario Giordano su Libero in prima pagina ne mette alcuni, non male. Perché i vitalizi sono reversibili, c'è la reversibilità molto spesso, quindi alle vedove, ai vedovi, ma anche ai figli. Ecco qui, da 40 anni vive col vitalizio di papà. La signora Anna Maria Cacciola, davvero fortunata, non ha bisogno di timbrare il cartellino o sopportare un capufficio fastidioso. Non deve tirare sulla Claire del negozio né affrontare la fatica di un turno in fabbrica. Niente di niente, le basta stare in panciolle sul divano. Perché lei è figlia di Natale Cacciola, classe 1904, avvocato di Messina, che si presentò in Sicilia alle elezioni nel 47. Nelle fila del partito monarchico, prese appena 3.440 voti, fu insediato deputato per 3 anni, di lui non si ricordano particolari iniziative, ma da allora, da 40 anni, paghiamo alla figlia 2.000 euro al mese di reversibilità del vitalizio, 2.000 euro al mese. Oppure Sergio Alessio, figlio del primo presidente della regione, prende 5.900 euro al mese. Ha più di 60 anni ma è senza reddito perché ha sempre vissuto a carico del padre e quindi prende la reversibilità della pensione del vitalizio del padre. Gli si può negare? Ma che? La figlia del deputato di Marsala Ignazio Adamo, classe 87, deve accontentarsi di 3.900 euro al mese. Figlia del deputato eletto nel 47, prende 3.900 euro al mese, ma solo perché altrettanti vanno alla mamma. Quindi 3.900 alla vedova, 3.900 alla figlia. E poi ci sono tanti casi, e in Sicilia i vitalizi si tramandano ai figli. Questo è il titolo di Libero. C'è il caso uno straordinario, il vitalizio al consigliere mai eletto. Ma come mai eletto? Eh sì, ebbene sì, Laura Anello lo racconta sulla Stampa. È il caso di Franco Bisignano, esponente del Movimento Sociale, che da poco è defunto. Continua la sua famiglia a beneficiare di un vitalizio di oltre 1.000 euro al mese. Non è un assegno da nababbi, ma una sommetta per cui buona parte degli italiani farebbero a pugni. È questo l'ultimo dei paradossi dell'Assemblea regionale siciliana. Perché non fu mai insediato? Perché lui fece una battaglia contestando l'elezione di un collega. Alla fine vinse questa battaglia, per cui in maniera postuma gli fu riconosciuto il diritto al vitalizio. Poi nel frattempo è morto e il vitalizio spetta ora ai familiari. Il vitalizio del consigliere mai eletto. Mai eletto. Ah. Ma non sono questi gli articoli che ci fanno tenere le mani sul volante, anche se questi un po' le mani sul volante ce le fanno tenere, anche le mani in tasca. Spero che abbiate già appoggiato tutto ciò di bollente che avete in mano, magari caffè, cappucci. Fatelo ora, perché adesso vi devo leggere l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, ci fa stare incazzati come non mai. Ed è un articolo di Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera. I 18 magistrati impegnati per il piccione ucciso. I 18 magistrati impegnati per il piccione ucciso. Da 5 anni a Milano 18 magistrati si stanno occupando della morte di un piccione in un andirivieni di processi. Tutto comincia il 6 giugno 2010, quando un avvocato di 50 anni si affaccia a una finestra nella sua villetta e con un colpo di fucile ad aria compressa c'entra un piccione che cade morto. Uno lo vede, chiama i carabinieri, arrivano i carabinieri, lui si presenta alla porta in stato di ebbrezza, dice che lo ha fatto perché anni prima suo figlio si era ammalato a causa di uno di questi volatili. E è un avvocato, vabbè, va a processo, ma poi lui contesta, fa appello. Le prove erano insufficienti, nessuno ha visto sparare, i carabinieri non hanno redatto un verbale e poi chi l'ha detto che l'uccello è stato ucciso dal proiettile? Potrebbe essere andato a sbattere contro un ramo. Dov'è il cadavere? Dov'è il piccione? Dov'è il corpo? E la confessione è inutilizzabile. E così da 5 anni, da 5 anni a Milano, 18 magistrati e oltre a cancellieri, avvocati, carte, faldoni, soldi nostri sono stati usati per questo minchia di processo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, l'arbitro imparziale dell'informazione. Ah, l'arbitro, potrei fare il presidente della Repubblica allora. Allora mi scrive Dani d'Alessandria, dice: scusa, basta, sono un orafo e a ogni tua notizia mi fai frantumare un brillante. No. caro, caro Dani, mandaci di qua i brillanti frantumati, noi li sistemiamo, li teniamo via, non si sa mai, andiamo in Svizzera. Va bene, allora, la Camera e il Parlamento, sta succedendo che cosa? Sta succedendo che si discutono le riforme. Renzi vuole un ritmo serrato, per questo si è votato fino alle 3 di notte. Alle 3 di notte, e l'accusa da parte delle opposizioni, soprattutto del Movimento 5 Stelle, ma anche di SEL, è di essere dittatoriali nel modo in cui si sta portando avanti questo contingentamento di tempi. Addirittura c'è questo su Twitter, gira proprio P-dittatori, cioè PD, P-dittatori col simbolo di con Mussolini, la foto di Mussolini con il simbolo del Partito Democratico appuntato al petto. E ieri c'è stata, l'altro ieri e ieri ci sono state due risse verbali alla Camera epocali. La Camera va oltranza bagarre e insulti, e urla serva nei confronti della presidente Boldrini, le urla serva ieri nei confronti della vicepresidente Sereni, che presiedeva l'aula, quindi nei confronti della presidenza da parte di quelli del Movimento 5 Stelle. Si è litigato anche per l'uso delle sigarette elettroniche nelle sedute fiume, perché qualcuno fumava la sigaretta elettronica e qualcun altro ha fatto notare che non fa bene in un ambiente chiuso. Comunque, il Messaggero fa resoconto con Claudia Terracina, pagina 10 della seduta fiume. Ecco il PD dittatori, Di Stefano del Movimento 5 Stelle che alza i toni così: il renzismo è il nuovo nazismo, mentre Scotto di SEL dice i renziani lavorano la notte come i ladri. E tra calmatevi, serva, gli urli, a un certo punto Nicola Molteni viene identificato a dire a uno dell'NCD coglione in aula, si è sentito anche, e prima l'abbiamo sentito anche, un chiarissimo pezzo di merda, ma anche buffoni, vergogna. Alle 23 poi, che dobbiamo fare del regolamento della Camera? Buttarlo nel cestino? Provocano i deputati Fraccaro e San Nicandro. Buttali fuori, invocano del PD. La Boldrini cerca di dominare il caos, richiama, supplica, minaccia, niente. Il grillino Crippa dice, lei non riesce a tenere l'ordine in aula, dittatrice! E vabbè, lì serva, seduta sospesa l'altro ieri. Ieri uguale, l'abbiamo sentito, con Giachetti che presiedeva, e lì è finita anche lì in rissa. Gente, ci sono le foto con in piedi sugli scranni del Parlamento. L'intervista a Daniele Del Grosso, deputato del Movimento 5 Stelle, intervistato da Tommaso Ciriaco a pagina 15 di Repubblica. Sì, come allo stadio abbiamo cantato serva in coro a Laura Boldrini, perché ha fissato la votazione sulla seduta fiume fuori dall'orario di assemblea oltre le 23. Il coro lo abbiamo alzato tutti. Come allo stadio, ma guardi che Boldrini ha fatto quello che diceva Rosato del PD, lo dicono tutti, non è che lo dico io, ed offensivo, è offensiva è lei, non noi, offensivo è ciò che ha fatto lei e non il nostro coro, il sopruso viene dalla presidenza. Questo alla Camera, mentre la politica si interroga, Renzi dice andiamo dritti, andiamo avanti, pare che voglia approvare tutto al limite entro domani, pare che sarà presente in aula per le votazioni finali, mentre vabbè, Forza Italia si è sempre frantumata sull'idea fitto, non fitto, che facciamo, fitto, non fitto, che facciamo. Tra l'altro, la notizia forse più interessante di Gossip, Fabrizio Roncone, a pagina 11 del Corriere della Sera, la mette in fondo all'articolo e dà comunicazione che, secondo voci, anche rumors, magari anche maliziose, che vengono messe in giro all'interno di Forza Italia, si dice, dicono, che tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi sia tutto finito. Basta, finito. Ecco, questo nell'articolo di pagina 11 del Corriere della Sera, dicono proprio così, tutto finito, si sono lasciati. Vabbè, seguirà smentita attorno alle 10.15, 10.50 di oggi. Allora, la vicenda, lasciamo un po' la politica e arriviamo alle banche, anche se c'entrano in qualche modo, lo vedremo con la politica. Sulle banche c'è grande attenzione, abbiamo detto che la Consob ha notato dei movimenti di sospetto insider trading poco tempo prima, pochi giorni, pochi attimi prima dell'approvazione del decreto sulle banche popolari da trasformare in SPA. Ora, su questa ipotesi di insider trading vuole indagare, sta indagando anche la procura di Roma. Il procuratore Pignatone ha chiesto tutti gli atti, la procura ha aperto un fascicolo fino a questo momento contro ignoti, non ci sono indagati. Però, come raccontano Ivan Cimarrusti e Marco Ludovico sul Sole 24 Ore, pagina 6, l'ipotesi c'è, il fascicolo esplorativo c'è. È insider trading l'ipotesi giudiziaria del fascicolo aperto a Roma. Dopo la relazione del presidente della Consob Vegas alla Camera, dopo un esposto dell'associazione consumatori Adusbef, ci potrebbe essere stata, ovviamente il condizionale è d'obbligo, una o più rivelazioni di informazioni privilegiate sul contenuto del decreto legge di riforma delle banche popolari prima della sua effettiva diffusione. Ciò avrebbe causato attività speculative da parte di investitori coperti da intermediari esteri. Ora si guarda con molta attenzione a Londra. Repubblica fa sapere in maniera molto chiara che la commissione, la Consob, ha convocato Davide Serra, il finanziere CEO di Algebris, considerato più volte detto vicino politicamente a Matteo Renzi. Walter Galbiati, a pagina 12 di Repubblica, racconta: ecco tutti i guadagni, metà con il banco. La commissione convoca Davide Serra. Qualche dichiarazione pubblica, un paio di tweet, un comunicato stampa ufficiali non sono bastati. Davide Serra dovrà prendere un volo Londra-Roma per recarsi negli uffici dell'autority della Consob e spiegare cosa sapeva prima del 16 gennaio su quanto il governo del suo amico, tra virgolette amico, Matteo Renzi stava progettando sulla trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Tra l'altro c'è la posizione di Serra, pagina 13, sempre di Repubblica: ho venduto e ci ho anche perso. Questa è la difesa del finanziere della Leopolda. Giovanni Pons racconta: nel quartier generale di Algebris Investment al numero 7 di Clifford Street a Londra si ostenta tranquillità, sono serenissimo. Questo è il comunicato di Serra. La nostra operatività è controllata da tre autorità diverse e se avessi fatto qualcosa di sospetto sarei già stato sospeso. Il comunicato stampa è questo: al fine di evitare pericolose quanto sommare strumentalizzazione, Algebris Investments dichiara di non aver comprato alcun titolo di banche popolari dal 1 al 19 gennaio 2015. Poi c'è un'altra questione che riguarda le banche, o meglio una banca in particolare, vale a dire Banca Etruria, che, come abbiamo detto nei giorni scorsi, è stata commissariata nei suoi vertici. Ora gli scambi sono stati sospesi in borsa, come racconta Luca Davi, sempre sul Sole 24 Ore. A pagina 6 si racconta anche l'imbarazzo, lo smarrimento ad Arezzo per un punto certamente centrale di riferimento per tutti gli aretini, non solo la Banca Etruria. C'è anche, e qui dico l'intreccio con la questione della politica, sapete che uno dei vicepresidenti, è stato volte detto più volte, di Banca Etruria è il papà del ministro Maria Elena Boschi. Il Fatto Quotidiano lancia un giallo in prima pagina, è questo il titolo, è il mistero della Boschi scomparsa. Davide Vecchi racconta a pagina 3 del Fatto che Maria Elena Boschi aveva dichiarato per quel che riguarda il decreto sulle banche popolari di non essere presente in quel momento in Consiglio dei Ministri. Perché? Semplicemente perché ero impegnata in Parlamento nel percorso di riforme costituzionali e sulla legge elettorale. Solo che il Fatto Quotidiano dice: nel frattempo Camera e Senato hanno pubblicato i resoconti stenografici dei lavori in Parlamento di quel 20 gennaio e a Montecitorio il ministro Boschi non si è vista, tanto che alcuni deputati di opposizione si lamentarono dell'assenza. E allora il Fatto dice: se non era in Parlamento, come dice lei, che dice ero lì e quindi non ero in Consiglio dei Ministri, dove era in realtà quando si approvava questo decreto il ministro Maria Elena Boschi? In aula non c'era, assicura il Fatto. C'è anche qualcuno, scrive il giornale, che già si lancia a dire la Boschi si dimetta. Massimiliano Scafi lo racconta a pagina 3 del giornale, ovviamente per questa vicenda. Ma sa tutto dov'era Maria Elena Boschi il nostro Mauro Meazza? Io ne sono certo. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Purtroppo non sono così informato degli spostamenti del ministro. Mi piacerebbe magari esserlo di più, però devo deludere le tue aspettative, caro Alessandro. pazienza. No, ti posso non sei un giornalista che... d'inchiesta, diciamo. Ti posso dire che abbiamo trovato invece il decreto sul TFR, quello che ti si era perduto nei tuoi, nella tua mazzetta dei giornali. Sì, eccolo qua, eccolo. Sei venuto no, a abbiamo sghiacciare. Trovato nel senso che diamo delle anticipazioni su come deve funzionare, tra l'altro insomma da marzo, quindi non è che c'è più così tanto tempo, da come deve funzionare questa richiesta, il TFR in busta paga, si comincia a sapere qualcosa, non c'è ancora niente di definitivo perché anche quella lì che se l'ha persa nella tua mazzetta comunque è una bozza, quindi bisogna che acquisti, bisogna che metterla ancora a posto. Poi ti voglio dire, lo sai che quest'anno c'è la certificazione unica, sì, che non devi dire la sigla, quello che una volta era il CUD. Ecco, quest'anno ha perso la D, però non dire la sigla per favore, che è mattina presto. Vabbè, avevamo detto che era, com'era, CUNIF. Sì, o Certuni, non so Certuni, adesso, ma non mi ricordo Certuni, che cosa ci eravamo inventati. Certunic. Comunque con della Certunic abbiamo delle indicazioni importanti dall'Agenzia delle Entrate che, di cui riferiamo naturalmente nelle pagine di norme e tributi. Tu invece stai leggendo, stai studiando inflazione e deflazione con tantissimo. Il giornale della famiglia. Ieri mi hanno trovato con degli occhi a palla a guardare una parete in casa, ma stavo ripassando. Lo sforzo mi ha provato, sì, sì. Capisco, però guarda, cerca di riprenderti, assimila bene, perché poi giovedì prossimo ovviamente daremo una seconda puntata, questa volta dedicata alle monete. Intanto portati avanti, mi raccomando, con il giornale di ieri, le quattro pagine che hai trovato, te le studi bene, poi non ti interrogo, lunedì non ti interrogo, stai tranquillo, anche perché voi avete una partita sulla carta più agevole. Mamma poi mia, dopo, ragazzi! Dopo vedremo che cosa succederà. Ah, sai che cosa si è trovato anche? Sì. Sempre lì, ce l'avevi tu nella tua mazzetta. Sì. Il disegno di legge sulla concorrenza. Ne riferiamo. Pensavo lo scudetto pagine. Per l'Inter, si è trovato di carta. Che spiritosata. Ma sulla carta, originale. Sai. Cartone ho trovato. Facciamo questa guerra tra poveri proprio. Sì. No, ti voglio dire, se ne parliamo in finanza, perché in questo disegno di legge concorrenza dovrebbero anche scomparire le spese o penali quando cambi i contratti delle comunicazioni, quindi telefonini oppure TV a pagamento eccetera, però attento, perché Carmine Fotina ci dice non è detto che ce la facciamo a discutere nel 20 febbraio. Vabbè, sai che il 20 febbraio è una data clou, sì. Anzi tu diresti decisiva, sì. So se vuoi. Ma è stato anche già rinviato comunque il decreto fiscale, Il decreto è sì, man mano insomma, si è visto che forse l'agenda del 20 febbraio era un po' piena, allora tutti si stanno, come si dice, riposizionando. Poi ti voglio dire comunque di stare attento perché la fedeltà al datore di lavoro, ne parliamo in norme tributi, può venir meno anche per atti extra lavorativi. Quindi per esempio il tuo tifo sfegatato, per dire, per una squadra di calcio che non è consona, potrebbe anche essere interpretato, scherzo naturalmente, il motivo era molto più serio, ma non ti voglio dire altro, leggi nelle pagine naturalmente i normi tributi e studia. Giornale della famiglia, non facciamoci cogliere impreparati. Una cara buona domenica a tutti, in particolare caro Alessandro, a te e ai tuoi collaboratori. Alessandro Milan, il padre Williams dell'informazione. Beh, ma anche con che voce squillante e suadente, cara ascoltatrice, grazie mille, il padre Williams. Allora, veniamo alle altre notizie sui giornali. C'è sempre la questione della Grecia che tiene banco, si parla di una maggiore apertura da parte della Merkel ad Atene, si parla di un compromesso alle porte, si parla di 5 miliardi che la BCE è pronta a dare, da altri 5 miliardi ad Atene. Per la verità Atene dice ce ne servono entro l'estate 10 o 15 altri soldi. Tra l'altro c'è questa cifra, quest'altra cifra ben più ampia, che trovate su Repubblica, sono delle stime della banca Barclays, una delle tante banche internazionali che stanno sfornando i loro report in queste ore drammatiche per Atene. Racconta Eugenio Corso sul quotidiano Repubblica che l'Italia, altro che essere esposta per 30-40 miliardi, in caso di Grexit, cioè in caso di uscita dalla Grecia, comunque in caso di fallimento della Grecia, l'Italia rischia 61,2 miliardi di esposizione su Atene. Ecco, soldi che poi, indovinate un po', 61,2 miliardi a chi andrebbero a chiedere, dovessero mancare, eh? Voglio tornare sul Corriere della Sera. C'è questa notizia che è solo sul Corriere e viene messa addirittura in prima pagina. È la lista della maxi evasione. Giovanni Biancone e Giuseppe Guastella raccontano di una possibile truffa sulla quale sta indagando il fisco, di false polizze all'estero, una vicenda che coinvolgerebbe 351 nomi già identificati dagli investigatori della Guardia di Finanza, di persone che avrebbero fatto una mega truffa frodando al fisco svariate centinaia di milioni di euro attraverso il sistema di polizze assicurative della succursale italiana di una società del gruppo Credit Suisse, banca con sede a Zurigo. Tra i 351 nomi di clienti indiziati di voler nascondere le proprie ricchezze ce n'è già uno noto alle cronache, e cioè Francantonio Genovese, ex deputato arrestato lo scorso maggio su richiesta della procura di Messina con autorizzazione concessa dalla Camera e attualmente ai domiciliari, ma un mese fa la Corte di Cassazione è stato mandato ai domiciliari, poi è stato rispedito in carcere. E ora si dovrà pronunciare il riesame. È il nome forse più famoso, se non altro il nome politico, che compare in questa lista di indagati. Comunque trovate tutti i dettagli su questa lista della maxi evasione, giuro, la Guardia di Finanza, sul Corriere della Sera, pagina 6. Mentre se ieri a Roma, cari cittadini di Roma, avete visto uno stuolo di vigili, con tanto anche di ironia, dice, oh, ve se vede solo oggi, ma tantissimi, tantissimi, dice, oh, finalmente i vigili in strada, erano a manifestare, 10.000 vigili da tutta Italia, non so se da tutta Italia, soprattutto a Roma, a manifestare, e qui le ironie si sprecano, Mattia Feltri sulla Stampa, 10.000 fischietti a Roma, la salute ritorna d'incanto, tutti, ricordate la vicenda dei vigili malati a Capodanno. Tra l'altro il ministro Madia, intervistato dal Messaggero, a pagina 3 dice: niente più casi come a Roma, colpiremo le assenze in massa, gli ispettori stanno chiudendo le verifiche sulle assenze di massa dei vigili alla fine dell'anno, ma una volta tirate le somme potrebbero essere pochi quelli che non hanno una giustificazione formalmente legittima. Mette le mani avanti, come abbiamo detto più volte il ministro Madia, alla fine vedrete che non nessuno verrà punito, oppure troveranno i 2, 3, 4, 5 che pagheranno per tutti, quelli magari che si sono tutelati un po' meno, ma alla fine, non, come succede spesso in Italia, non paga mai nessuno in queste situazioni. Viene intervistato anche dal Messaggero Daniele Zappelloni a pagina 2, è un agente indagato. A San Silvestro c'era da dare un segnale, dice così, intervistato da Lorenzo De Cicco. È vero, ho detto ai miei colleghi di non andare al lavoro il 31 dicembre, li ho invitati ad andare a donare il sangue. Dopo che ci avevano negato l'assemblea sindacale, dovevamo fare qualcosa, dovevamo dare un segnale. Ora sono indagato per istigazione a delinquere e truffa ai danni del Comune di Roma. Han visto quello che ho scritto su Facebook, ci scriviamo di tutto in questo gruppo privato. E da 3 giorni fa la Guardia di Finanza è venuta a casa mia, mi hanno sequestrato cellulare, computer, iPad, cose personali, le hanno portate via per vedere se ci fossero prove su queste pressioni che avrei fatto anche sui miei colleghi per non farli andare a lavorare. Capito? Bisognava dare un segnale, così dice questo vigile a Roma. Trovate moltissima anche di cronaca di questa tragedia incredibile, è successa a Catania, una neonata morta in ambulanza, nata da poco in una clinica privata, doveva essere trasferita a Catania in ospedale per un'insufficienza respiratoria, è morta perché posti letto occupati. Il solito rimbalzo di responsabilità, in questo caso chi doveva capire non ha capito l'urgenza, eccetera, insomma una tragedia di cui tutti i giornali raccontano in maniera molto molto abbondante. Oh, abbiamo detto che è venerdì 13, l'ho detto in apertura, ho detto che essere superstiziosi porta sfiga. Secondo voi chi poteva dire questa frase? Il venerdì 13, speriamo che non esca la sentenza il venerdì 13. Schettino, il comandante, ieri Oggi scrive il Messaggero, avrebbe detto, speriamo, nei giorni scorsi, speriamo almeno non venerdì 13, che sono superstizioso. È arrivata infatti due giorni prima la sentenza. Lui non la voleva venerdì 13. Sono scaramantico. Dai, cito solo il titolo, La carta costa. Il giorno. Erika Pontini, una pagina su Amanda Knox che si sposa. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui. Ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori, sono le 8:19 e oggi vi vogliamo parlare della lista Falciani. Quante volte abbiamo sentito parlare di lista Falciani, capire esattamente di cosa stiamo parlando, di cosa si tratta. Beh, intanto oggi l'Espresso pubblica i nomi dei circa 7.000 italiani che hanno o avevano dei conti alla filiale della HSBC, una delle più importanti banche in Svizzera. È un totale in realtà di 100.000 nomi che sono svelati in tutto il mondo proprio in questi giorni di titolari di conti di questa banca. Come, dove sono stati reperiti questi nomi? Da questa lista Falciani, da Hervé Falciani, che era un ex dipendente, è un ex dipendente di questa banca, che un bel giorno ha deciso di trafugare e rendere noti, in modi che cercheremo di spiegare oggi, tutti questi nomi. Vi preannuncio, tra l'altro, che Hervé Falciani sarà ai nostri microfoni, più avanti, alle 8:35 più o meno. Cercheremo questo collegamento, tra l'altro dobbiamo dire da una località che non si può svelare, perché in questo momento vive un po' braccato, vive in giro per il mondo, diciamo così. Ma intanto io voglio salutare il collega del Sole 24 Ore, Angelo Mincuzzi, che è qui con noi. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Angelo Mincuzzi è colui che ha raccolto tutte le testimonianze di Hervé Falciani, ne ha scritto un libro edito per Chiare Lettere, che si intitola Cassaforte degli Evasori e sarà in libreria da mercoledì prossimo. È la prima volta, Angelo, che Hervé Falciani racconta la sua verità in questo libro. Eh sì, è un'anteprima mondiale, diciamo. È un'anteprima mondiale. Voglio salutare anche Bruno Tinti, ex magistrato e editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Tinti, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Allora, Angelo Mincuzzi, intanto, Hervé Falciani chi è? Bella domanda. No, Hervé Falciani è un uomo che ha lasciato una carriera sicura, ha lasciato un posto in banca, ben retribuito. Ha lasciato una vita tranquilla per imbarcarsi in un'avventura che è sicuramente più grande di lui, un'avventura di un mondo che noi non immaginiamo nemmeno, che sembra tratto da un romanzo di Le Carré. Sì, però sembra proprio un film di spionaggio, ma in realtà è verità, perché è un uomo che ha fatto questo e poi adesso vive braccato, si è parlato di minacce di morte. Esatto. Da più di cinque anni, saranno 6-7 anni che vive un po' così in giro per la Francia e spesso cambiando posto ogni notte. Insomma, non ha una vita facile. Non ha una vita facile. I nomi, veniamo ai nomi. Allora, l'abbiamo detto tante volte, caro Angelo, ma dobbiamo ridirlo per precisare agli ascoltatori. Essere in questa lista automaticamente non significa avere fatto nulla di male in maniera automatica, vuol dire avere un conto in Svizzera o aver avuto un conto in Svizzera. Oggi l'Espresso pubblica i nomi. Concentriamoci sugli italiani. Quali sono i nomi che sono finiti sulle pagine dell'Espresso e su tutti i giornali? Beh, erano già finiti i nomi di Valentino Rossi e dello stilista Valentino. Oggi c'è lo stilista Cavalli, c'è l'amministratore delegato del gruppo Benetton, c'è il presidente di Telecom Italia Recchi, c'è l'immobiliarista Zunino. Insomma, ci sono soprattutto imprenditori più o meno conosciuti, professionisti, c'è il sondaggista Mannheimer. Chiaramente sono stati tutti interpellati dall'Espresso, i colleghi dell'Espresso hanno fatto un lavoro straordinario, bisogna dirlo. Di mesi e mesi di lavoro, un lavoro difficilissimo, di elaborazione dei dati, di riscontro. Hanno ascoltato le risposte di tutti i titolari dei conti di cui scrivono sul giornale e hanno dato la possibilità a tutti di replicare. Come dicevi tu, avere un conto in Svizzera non significa automaticamente essere un evasore fiscale. Ci sono anche poi nomi magari che sono finiti sui giornali gli scorsi giorni, come Flavio Briatore, e tra l'altro poi magari sentiremo anche la sua versione che è stata raccolta ieri dalla Zanzara, oppure Stefania Sandrelli, no? E questo era un nome peraltro che era già uscito uscito 5 anni fa, quando la lista Falciani arrivò per la prima volta in Italia e fu analizzata dagli uomini della Guardia di Finanza e dai magistrati di una 50 di procure. Ecco, tra poco magari ci spiegherai anche appunto come questa lista da Falciani, che ha deciso di trafugarla alla banca, sia finita poi sia finita sui giornali e sia diventata pubblica. Vorrei chiedere però a Bruno Tinti già un parere. Abbiamo detto, Tinti, che essere su questa lista non significa di per sé nulla. A lei che considerazioni le fa trarre? Ma guardi, come dire, una certa delusione come al solito, nel senso che in Italia non è successo nulla sostanzialmente e non succederà nulla, perché è vero che essere su questa lista non significa automaticamente essere evasori, nel senso che la lista non è prova di nulla, prima di tutto è una lista che ha una provenienza furtiva, e quindi, avendo una provenienza illecita, non può costituire prova in un processo penale. In secondo luogo perché i fatti si fermano al 2010 e ormai siamo nel 2015, la prescrizione è di 7 anni e mezzo, forse i fatti si fermano al 2009, ora che ci penso, e quindi insomma rimane un anno e mezzo per celebrare un processo. Quindi se anche si indagasse, se si trovasse qualche prova, arriverebbe la prescrizione. Non solo, ma adesso c'è la cosiddetta voluntary disclosure, sì, che è un condono in realtà molto più costoso degli altri, ma sempre condono è, che prevede addirittura la non punibilità per i reati tributari che risalgano ai capitali detenuti all'estero. Quindi voglio dire, è interessante come fenomeno sociale la divulgazione di tante persone che avevano deciso di avere i loro conti presso l'HSBC, ma non avrà effetti. Dal punto di vista pratico non ha avuto e non avrà effetti. Non avrà effetti. E dal punto di vista mediatico, non so, vorrei chiedere Mincuzzi, dal punto di vista mediatico c'è, per esempio in Svizzera se ne parla oppure viene considerata una cosa? Ah beh sì, in Svizzera se ne parla, ma se ne è parlato in tutti questi anni. La Svizzera chiaramente non ha fatto nulla, l'unica cosa che ha fatto è stata quella di rinviare a giudizio Falciani per spionaggio economico e violazione del segreto fiscale. Beh, comunque un reato lo è, Tinti, lo è un reato per trafugare dei conti da dipendente, se non altro una violazione della fedeltà nei confronti dell'azienda per cui lavori. Ma vede il paradosso di questa situazione? Falciani pubblica un documento che rivela possibili, su questo vorrei tornarci, gravi reati di natura fiscale, tutti sostanzialmente restano impuniti e l'unico che è punito è lui. Sostanzialmente lui, anche giustamente, perché lui la lista l'ha rubata, però solo lui non va bene, è un'ingiustizia. È un'ingiustizia. E il mondo gira male. Vabbè, Angelo, subito ci scrivono, e Davide Serra, no, stai attento, perché qua se fai un nome o non fai un nome, ti dicono subito che non abbiamo detto Davide Serra, evidentemente, perché se non finanziere considerato amico, amico vicino a Renzi, ci danno subito dei renziani. C'è anche Davide Serra. C'è anche Davide Serra, va bene. C'è anche Davide Serra, ma grazie all'ascoltatore che ce l'ha segnalato. Io volevo dire una cosa anche, noi ci concentriamo sui nomi italiani, ma la dimensione del fenomeno è enorme, incredibile. Ci sono trafficanti di droga, trafficanti di armi, trafficanti di diamanti sanguinati. Ho letto il re del Marocco. Sono state, e questa è una cosa che dico, sono state compiute delle indagini antimafia in Italia sulla base dei dati che sono stati prelevati da Falciani. Quindi sono state fatte delle cose enormi in Italia e nel mondo, nessuno lo sa chiaramente, ma grazie a dei dati... Cioè ci stanno dicendo magari operazioni che sono state bloccate grazie ai nomi che sono magari in maniera coperta, in maniera segreta? Esatto, grazie ai nomi che sono stati prelevati da Falciani. Falciani ha dovuto violare la legge svizzera del segreto bancario, l'ha violata sicuramente, ma sulla base di questa violazione probabilmente sono state salvate delle vite umane. Beh, insomma, Tinti, lei personalmente come lo considera? Un paladino della trasparenza, un eroe, uno che ha fatto una cosa giusta, oppure un farabutto che ha rubato dei dati? No, io ieri sera mi sono letto l'anteprima di questo libro, che è veramente interessantissimo, come dicevate prima, sembrano liberti nelle case di spionaggio costruito bene, non quelle cose un po' banali, no? Lui dà tutta una serie di motivazioni al suo comportamento, racconta un'attività che si è prolungata per anni e se tutto quello che lui dice è vero, certamente è una persona che è stata toccata nel profondo da un'organizzazione che mira a consentire il successo di una classe di privilegiati che si sottraggono ad ogni legge dei vari stati in cui vivono. Quindi certamente dovrebbe essere messo al livello di Snowden e degli altri che hanno rivelato delle cose che il potere tende a mantenere nascoste. Quindi insomma un giudizio positivo. Ma le chiedo anche questo: essendo stata trafugata, ce lo dica da magistrato, questa lista può essere utilizzata in Italia o è carta straccia, come dicono molti? No, guardi, quello che è successo in Italia è tipico di quello dell'Italia. Con la lista Falciani dal 2010 si sono aperte ad iniziativa delle varie agenzie delle entrate territoriali una serie di procedimenti amministrativi per accertamenti fiscali. Sì. E si è detto di tutto. Sostanzialmente le varie commissioni tributarie, provinciali e regionali si sono divise, si sono spaccate. Alcune hanno detto, per carità, non si può assolutamente tener conto di questo documento, non si sa che provenienza abbia, e se avesse la provenienza che dice di avere, cioè di provenire davvero dalla banca, sarebbe un documento di origine illecita che non può sostanziare attività d'accertamento. Altre hanno detto il contrario. Ma all'italiana, all'italiana. L'Agenzia delle Entrate centrale ha detto una cosa fantastica. Ha detto: io non sono nemmeno in grado di dirvi quanti processi tributari sono stati fatti sulla base della lista Falciani, perché siccome sono tutte iniziative locali, osservo io, sempre iniziative locali nelle due diramazioni, non di uffici diversi dall'Agenzia delle Entrate, noi non siamo in grado di dire che cosa ne abbiamo fatto. Allora, questo sì, è giudizio negativo che lei dà, però facciamo così perché ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità. Dopo, quando rientreremo insieme a Bruno Tinti, insieme ad Angelo Mincuzzi che rimane qui con noi, avremo ai nostri microfoni, speriamo, perché bisogna, essendo un romanzo di Le Carré, bisogna, Angelo, insomma incrociamo le dita, avremo il protagonista di tutto questo, Hervé Falciani, a Radio 24. 24 mattino. Sono le 8:36 minuti, eccoci ancora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora siamo con Angelo Mincuzzi qui nei nostri studi, collega del Sole 24 Ore, coautore del libro La Cassaforte degli Evasori, che troverete in libreria da mercoledì per Chiare Lettere. C'è con noi anche Bruno Tinti e c'è con noi, e lo posso salutare, lo ringrazio anche molto per essere qui in diretta su Radio 24, il protagonista di tutta questa vicenda mondiale, Hervé Falciani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie a voi tutti. Allora, intanto chiariamo, Falciani, la chiamiamo così, non Falciani, come preferisci? Per favore, sì, grazie. Falciani. Sì, Falciani, certo. Allora, la domanda che tutti si fanno nel mondo è: perché lei ha fatto quello che ha fatto, cioè trafugare dei dati della banca per cui lavorava? Oggi, come l'ho già detto dall'inizio, quello che è forte è che sono saliti ieri email che avevo inviato in 2008, in marzo 2008, sì. E l'ho spiegato alla BBC. Sono lettere per denunciare che ci passava nella banca, che è assolutamente incredibile, impossibile da capire al momento. 7 anni dopo, adesso, con tutti quegli esempio che abbiamo per tutto il mondo, scusi che... Prego. Parlavo molto in spagnolo ieri. E con quegli esempi adesso possiamo dire che è più chiaro sapere perché l'ho fatto. Ma cioè per una questione di trasparenza, di libertà, di libera informazione... Di dangerosità per tutti, per l'economia, quando sapete che in questa parte oscura della finanza si nasconde la metà del debito mondiale, è quello che è più importante. E oggi che siamo in crisi, e all'epoca anche che cominciava la crisi e che ci vedeva già bene tutte le conseguenze di questa economia che nessuno voleva vedere, quando si sa che le leggi sono state fatte da loro, vuol dire di pochi banchieri che sanno esattamente come li vanno ad aiutare a fare molto e molto più dinero. Oggi la finanza prende tutti i benefici grazie a persone come Juncker, come persone che sono capi delle leggi che dopo noi paghiamo. Cioè, lei voleva denunciare la pericolosità del potere della finanza mondiale. Il potere della finanza... Prego. Sì, scusi, la prima cosa che ho spiegato, investigatore, la prima chiamata che ho fatto è alla alta brigata degli alti crimini finanziari francesi, sì, di Nanterre. E loro non hanno capito niente e mi hanno passato nelle mani di tante altre gente per mesi. Però spiegavo che cosa. Il caso del USD, del ESD, del European Saving Directive, che un esempio, l'esempio tipico di problema delle leggi che sono fatte per banchieri e che continuano oggi a mostrare che le regole che mettiamo per provare a controllare questa finanza non funzionano, non sono efficaci, non sono fatti perché non permettono di vedere che ci sono chi c'è dietro un trust e gli altri. Ma lei, infatti, Falciani, lei denuncia che i governi in generale sono al servizio delle banche. Ma questo così è ovunque così? Cioè anche in Italia dobbiamo pensare così? Non è solo un'ipotesi, è che ci può confermare quello con i fatti, con il lavoro di spiegazione che abbiamo fatto con Angelo, che è stupendo, lo ringrazio a questa occasione ancora. È quello che ci vuole solo osservare, ci vuole sapere, l'abbiamo fatto, a oggi per tutto il mondo si sa di più, però sì, ci vuole tempo per capire bene, per osservare che è così, che non sono tutti sporchi, però sono stati abbastanza gente sporchi per cambiare le cose per tanto tempo e che adesso fin quando non cambiamo quello, staremo nelle stesse situazioni e non c'è motivo perché cambia. Però le chiedo questo: lei ha una vita molto blindata, non sappiamo dove si trova e cambia spesso località. Ma chi le vuole male? Cioè chi vuole il suo male? Ce lo vuole spiegare? Sì, è che basta solo pensare, essere mia persona per un minuto e si capisce tutto. Posso fare il sforzo di spiegare quello, però basta questo. E dopo, per dare esempio, ci sono solo le chiamate dei servizi di protezione di vari paesi. Che la proteggono. Cioè lei si sente protetto abbastanza? Si sente protetto? Ci sono protezione, però sai che nessuno e niente è 100% sicuro, però sì. Allora, no, ma questo è chiaro. Falciani, qui c'è Angelo Mincuzzi, come sai, Bruno Tinti. Angelo, tu gli hai fatto migliaia di domande, immagino, che hai tradotto in questo libro, ma ce n'è una che puoi, anche dare e regalare ai nostri ascoltatori? Che vuoi fare a Hervé? Gliene ho fatte 300.000, credo di avergli fatto tutte le domande in questi anni, sono esausto da questo punto di vista. Qual è quella chiave però che possiamo, per la quale Falciani ci può dire qualcosa oggi? Ma la domanda chiave innanzitutto secondo me è quella di chiedergli che cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, ognuno di noi nel nostro piccolo, per cambiare questa situazione che è pervasiva. Falciani. Che lo stiamo facendo compartendo questa informazione per fare cambiare i voti, per dare attenzione a quella parte, a quel problema che può risolvere tutti gli altri, tanti gli altri, perché oggi più di tutti abbiamo problemi finanziari. Però Falciani, chi è su questa lista, lo abbiamo detto mille volte, non è automaticamente un evasore fiscale o non ha fatto nulla di male. Per lei, chi è su questa lista? Ovviamente sono 100.000 nomi, ma in generale, chi è in quella lista? Che cosa rappresenta? È qualcuno che cerca il segreto per nasconderci. E solo quello ci vuole capire. Ci sono periodi nell'istoria dove quando ci può avere bisogno di quello segreto, però oggi dove il mercato che decide tutto, quello che ha l'informazione può controllare gli altri. Abbiamo l'esempio di abbiamo tanto parlato del denaro che si può riciclare, però non parliamo molto del denaro che si può mettere nero, no? Mm-hmm. E che quello che serve a che? Alla corruzione, che serve a facilitare tutto quello che in Italia conosciamo bene a livello politico, a fare che le leggi si possano cambiare perché abbiamo riuscito a pagare abbastanza deputati. Beh, vuol dire. Non so, Bruno Tinti, lei condivide questa ricerca, mi sembra di capire, di trasparenza totale. Ci dice Falciani, chi è lì vuol dire che vuole mantenere in segreto qualcosa. Tinti. Ma guardi, ha così ragione che mi veniva un po' da sorridere. In effetti, accanto a questa attività, che a questo punto è assolutamente meritoria, di persone come Falciani, un sistema per raggiungere questo obiettivo di trasparenza che poi impedisce comportamenti illeciti ci sarebbe. È molto semplice. Basterebbe fare una norma in base alla quale chi detiene denaro o altre ricchezze deve essere in grado di spiegarne la provenienza. Se non è così, se non mi sa dare una ragione attendibile al fatto che egli possiede questa ricchezza, semplicemente il denaro gli viene sequestrato. Addirittura. Mannaggia. Ma è normale se lei ci pensa. Io ti chiedo. C'è un po' l'inversione dell'onere della prova in questo. No, è questo il punto fondamentale. Tu non mi devi dimostrare da dove viene il denaro, me lo devi semplicemente dire. Dichiarare. È un onere di allegazione, non probatorio. Sì. Sta all'accusa. Dimostrare poi che sia illegale. No, ma questo è chiaro. Tu mi dirai, trattasi di un'eredità. Benissimo, vado a controllare se è vero o non è successo. No, ma infatti, come oggi, per esempio, vero, oggi manca la trasparenza. Certo, la sorella di Giorgio Stracquadagno, ex politico, perché bontà l'anima sua, è morto. Hanno trovato 10 milioni di euro e la sorella, dice al Corriere, è frutto di un'eredità. Io abbiamo ancora pochi minuti con Falciani. Falciani, lei conosce Flavio Briatore? Ne ha sentito parlare? Di nome. Certo. Allora, Flavio Briatore ieri è stato raggiunto dai colleghi della Zanzara, da Giuseppe Cruciani, e ha detto di lei, Flavio Briatore è su questa lista, e ha detto di lei questo, ascolti. Ma sai, so che uno che ha rubato dei dati a una banca è un truffatore. Cioè, è uno che se tu lavori in una banca e rubi i dati della banca che li pubblici, sei un truffatore, io lo considero questo. Credo che la fatta a scopo di lucro, non lo so. Questa roba qui è partita nel 2010, non è una notizia questa, no? Questo qui è un riciclo giornalistico, se vuoi. Vabbè, che non sia una notizia, questo poi è tutto da vedere, è chiaramente una notizia. Però Falciani, Briatore dice lei ha truffato la sua banca e quindi è tecnicamente un truffatore. Ma voglio dire, sono contento, è Briatore che lo dice. Sì, certo. non viene dal Papa o non so, quello già è come una decorazione. Direi che in questo mondo dobbiamo trovare il modo di fare le cose. Se le regole non erano così, vuol dire anche mettere la gente come sclavi, schiavi era legale per tanti anni e dopo ci è voluto violare quella regola, no? Lei dice ci vuole qualcuno che magari fa qualcosa di poco ortodosso per fare vedere. Però la domanda chiave gliela devo fare. Ma lei, come dice Briatore, ma come dicono anche tanti, ci ha guadagnato dei soldi su questo? Cioè l'ha venduta, ha lucrato su questa lista? No, dobbiamo. È sempre abbiamo parlato dell'origine del denaro che è molto importante. È vero per i dati anche, per le informazioni. Non dobbiamo dimenticare che c'è anche la volontà di banchieri, di gente che sono esposti a voler fare come lo fanno i mafiosi, a distruggere l'origine delle notizie. no, per bere le notizie, però distruggere l'origine delle notizie. Dopo, io non sono contro il fatto di avere soldi, perché soldi sono modo di lottare. Sì. Però, ma contro il segreto, che, contro il segreto, sì, però, contro il segreto. Il modo di ottenere i soldi oggi si fa se si rispetta il segreto. E se, come l'abbiamo fatto, proviamo e cerchiamo a aiutare a fare conoscere l'informazione, allora siamo nelle stesse situazioni di un Assange o di un Snowden, di tutti gli altri così. Mm-hmm. Cioè lei si paragonerebbe ad Assange o a Snowden? Anche se io quello che diverso è che io volevo avere un aiuto della giustizia, perché se cambia le cose, non perché se le disfondi come sì. È stato diffuso e non l'ha avuto, non si è sentito aiutato. No. Le chiedo questa ultima cosa: si è parlato di un suo avvicinamento al movimento Podemos in Spagna e anche al movimento 5 Stelle in Italia, le è simpatico qualcuno politicamente in Italia? Quello che mi è simpatico è quelli che capiscono l'importanza di andare e di cambiare le leggi in questo modo e tenere in conto queste informazioni che abbiamo con LuxLeaks, con tante sì. cose che spieghiamo anche nel libro, che è tutto quello che ci vuole capire, che c'è una coerenza globale. Ma li vede in Italia qualcuno vicino, cioè è il Movimento 5 Stelle o non vede nessuno? Ma certo che gli unici che hanno cominciato, no, a parlare di quello sono loro, sono no? loro. Sono Va loro, bene. Sono il fatto quotidiano, sono gente così che sono nella volontà di diffondere le informazioni utili per la comunità. Allora, io intanto la ringrazio moltissimo. Ci aveva detto che alle 8.50 ci deve lasciare, sono le 8.50 in punto. Hervé Falciani, la ringrazio molto per essere stato qui con noi a Radio 24 in diretta al telefono. Ovviamente una buona giornata, in bocca al lupo per tutto. Che dire, noi dobbiamo chiudere questa parte. Saluto e ringrazio anche Bruno Tinti di essere stato con noi. Oggi mi sembrava anche per l'occasione, visto che ci ha dato all'ultimo questa opportunità, di dare molto spazio a Hervé Falciani. 24 mattina. Allora, le 8.52 minuti, Angelo Mincuzzi, di cui voglio ricordare il libro, e io invito tutti a comprarlo, perché Falciani lo abbiamo sentito, ma in questo libro per la prima volta in maniera approfondita spiegherà tutto ciò che lo ha portato a fare quello che ha fatto. Poi ognuno darà il giudizio che vuole. Il libro si intitola La cassaforte degli evasori, lo trovate da mercoledì prossimo in libreria. Angelo, che tipo di conclusione possiamo trarre da questa vicenda? Scusami, sto ancora ridendo per le parole di Imbriatore. Devo riprendermi. Vabbè, insomma, è la sua cosa che però hanno fatto in molti a dire, cioè comunque nasce tutto da questo peccato originale di un furto, ecco, di un furto. Certo, e questo è il paradosso, come anche osservava Tinti, è il paradosso dei cosiddetti lanciatori d'allerta, cioè whistleblower certo. che negli Stati Uniti sono protetti per legge, cioè per rivelare un reato devi commettere a tua volta un reato. È un paradosso dal quale non se ne esce se non vengono cambiate le leggi o se non vengono fatte delle leggi. Falciani ci ha spiegato bene, dice come all'epoca della schiavitù c'è qualcuno che deve rompere le catene, no, di questo silenzio. Esatto, e io l'ho fatto. Esatto. Mi sono sentito. Tutto questo, però, questa situazione crea in chi denuncia i reati dei grandi drammi personali, perché ci si addentra in un incubo personale che è devastante per se stessi e per le famiglie. Comunque, noi concludiamo come sempre la puntata con il nostro appuntamento che ormai sapete, cari ascoltatori. È l'appuntamento Ciao Italia, in cui invitiamo, caro Angelo, ogni giorno in onda chi ci ascolta in streaming, in podcast, da tutto il mondo. Siamo andati dovunque, ci ascoltano dal Mozambico, ci ascoltano dalle Seychelles, c'è un cuoco dalle Seychelles. Oggi voglio salutare Alessio, buongiorno Alessio. Buongiorno Alessandro Mila. Anzi, devo dire buonanotte, lo so. Dove sei tu? Io sono a Houston, Texas. Houston, abbiamo un problema. Ma lì esatto. Falciani, tu sei riuscito a sentirlo adesso in diretta, non lo so se ricordi. Sì, io seguo sempre, grazie a voi che siete... Se ne parla lì di Falciani, lo conoscete? No, noi italiani sì, ma gli americani della politica italiana proprio non no, politica italiana è una vicenda, è una vicenda mondiale, la vicenda di Falciani, della lista sì. Comunque non seguono tanto gli americani in generale, non seguono. Vabbè, ma tu che ci fai, caro Alessio, a Houston? Io niente, mia moglie è metà americana, metà io italiana, niente, è bellissimo. Ho avuto questa chance di ottenere la carta verde e ci siamo trasferiti. Cioè fai il mantenuto, allora. Non ho capito. No, assolutamente, anzi, faccio due lavori, non sei tu una destra, non è che sono tanto mantenuto. Che ore sono lì a Houston? Sono cosa, 8 ore indietro, no? 7 ore? Sì, sono quasi le 2 di notte, di lavorare poco tempo fa. Che fai? Io adesso attualmente faccio due lavori, faccio lavoro in un ristorante fine settimana e poi faccio il tecnico per impianti birra e cose, però sono venuto qua con un progetto che è quello di aprire un ristorante, perché mi dico che è un ristorante in Italia. Qual è il piatto italiano che va per la maggiore a Houston, per il quale si leccano i baffi? Sì? Il piatto che va per la maggiore italiano. Ah, il piatto che va per la maggiore, ma qui a Houston ancora stanno agli anni 80, cucina anni 80, per quello abbiamo deciso di spostarsi qui, perché ancora sono... Ho capito, ma il piatto italiano che sai che spacca Houston, qual è? No, non ce n'è. Non ce n'è, ancora niente. Sono alle... I spaghetti in scatola. Spaghetti con meatballs, oppure... Pettuccine al freddo, mamma mia, è tutto da fare, un disastro, tutto da costruire. In bocca al lupo Alessio da Houston, buonanotte anche Angelo, abbiamo 10 secondi, niente, ma facciamo le auguri ad Alessio e agli italiani che sono in giro per il mondo a lavorare. Sì, io vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì, ringrazio ancora Angelo Mincuzzi, a lunedì siamo qui alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.